What ho avuto? Oh, io ho fatto! Bambino comunista, sta, sta. Bambino comunista, sei il primo della lista. Tuo padre è un po' fascista, tua madre una rivista. Bambino comunista, sta, sta. Bambino comunista, sei il primo della lista. Cugina pinduista, nipote qualunquista. Sei forse un po' leghista. Bambino comunista, sei il primo della lista. Bambino comunista, sei il primo della lista. Bambino comunista, sei il primo della lista.